Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Influencer marketing è il tema di oggi. Lo facciamo con Stefano Longoni, che è l'ospite che ho qui di fronte a me, che magari a qualcuno dirà qualcosa, alla gran parte dei nostri ascoltatori non ancora, ma alla fine della puntata andranno su ecu2u.com per andare a capire meglio di che cosa si tratta. Buongiorno Stefano. Buongiorno Pepe, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24, è un piacere essere qui. Grazie dell'invito. Ma scherzi, no, io mi sono rimasto colpito dalla tua piattaforma. Avete creato una piattaforma per gli influencer. Allora, intanto, che cos'è questa piattaforma e da dove nasce l'idea di questa piattaforma? Allora, ECU è una piattaforma tecnologica che nasce con lo scopo principale di permettere agli influencer di profilare e gestire la fanbase, veicolare ai fan dei servizi a pagamento e in ultimo comunicare direttamente con loro. Ci tengo a precisare che ECU non è un social network, ma è una piattaforma a supporto degli influencer e dei canali social già presenti e ha la capacità di far generare agli influencer, per l'appunto, nuovi ricavi. Mm-hmm. Perché di base a oggi tutta l'utenza che, tra virgolette, pensano di possedere sui social network, in realtà non gli appartiene. Perché è di proprietà del social network. Giustamente, di proprietà del social network. È un media, gli danno uno spazio, gli dicono, vedi tutti quei bei numerini, sì, è vero, ti stanno seguendo, ma il giorno che il social media dice chiudiamo o riduciamo la portata organica, ossia quanti di quei fan riesci a raggiungere senza dover investire in advertising, ecco, ovviamente l'influencer inizia a avere qualche piccola problematica. Ma questi influencer sono effettivamente degli imprenditori o dei potenziali imprenditori o sono ancora invece, come dire, degli artisti d'avanspettacolo che generano tanti fan? Allora, è un'ottima domanda. Diciamo che, come sempre stato, ci sono due categorie, anzi direi tre, quelli che, ahimè, nonostante il potenziale, rimarranno dei semplici personaggi dello spettacolo e, a causa dei tempi del web, moriranno in fretta. Quelli che sono degli imprenditori a tutti gli effetti, potrei portare delle che esistono come Me Contro Te, che ultimamente si sente parlare molto di loro, stanno facendo dei numeri pazzeschi, funzionano al cinema, merchandising, tutto quello che toccano diventa oro, ma ce ne sono molti altri. Tanti altri che secondo me sono dei futuri imprenditori, perché tutti questi ragazzi stanno iniziando a capire che questo è un mestiere, come, diciamo, tutti i mestieri, ovviamente bisogna applicarsi, dedicarci del tempo e se questo viene fatto ovviamente porta dei frutti. Le aziende, quale vantaggio oggi possono trovare nel collaborare con un influencer dal tuo punto di vista, se ha ancora senso, e che tipo di collaborazione? Allora, diciamo che innanzitutto vado a distinguere due tipologie di influencer, cioè i generalisti, quelli che fanno un po' di tutto, e i verticali. Prendendo i verticali, sicuramente, ad esempio, un'azienda che fa fitness va a investire su un influencer che parla di fitness, ha dei grossi vantaggi perché uno è credibile, due la forza dell'influencer è quella di sembrare una persona comunque per certi versi normale, molto vicina a noi, sì, e quindi performa molto bene. Per quanto riguarda i generalisti raggiungono delle grandi numeriche, però anche lì bisogna stare molto attenti nel tipo di contenuto che si vuole andare a veicolare, di prodotto che si vuole andare a veicolare. Deve essere comunque credibile. In che senso? Nel senso che comunque la fanbase non è stupida, capisce quando uno sta facendo una marchetta e quando in quella marchetta ci crede. La grossa fortuna, tornando indietro, è che anche in questo caso la credibilità dell'influencer è dovuta al suo essere molto vicino, molto semplice e quant'altro. Quindi molto spesso deve essere attenta l'agenzia di comunicazione che ingaggia un influencer a trovare il modo giusto, il prodotto giusto da proporre all'influencer giusto. Ci sono delle agenzie che sono veramente carrozzate, cioè sono in grado di trovarti degli influencer a te azienda che fanno il tuo caso, o siamo ancora all'artigianato dell'andiamo a cercare online, vediamo chi ci può aiutare? Allora no, esistono svariate agenzie che si occupano di fare management diretto di influencer. Dopodiché ci sono agenzie di comunicazione che si rivolgono a queste per avere delle consulenze su chi prendere. In ultimo esistono delle piattaforme tecnologiche, di cui una italiana, Basul, che si occupano di fare una ricerca, diciamo in maniera industriale, di quelli che sono gli influencer più adatti per un brand, ma soprattutto vanno anche a valutare quelle che sono le reach minime garantite che si possono raggiungere. Continuo ad avere un dubbio, no? Sì. Sul fatto che se io fossi un'azienda e dovessi investire su Stefano Longoni, mi farei la domanda del: ma Stefano Longoni settimana prossima che cosa pubblicizzerà? Questa settimana pubblicizza il mio tonno in scatola, ma la settimana prossima pubblicizza il concorrente, pubblicizza la passata di pomodoro o pubblicizza gli pneumatici o le borse di Ferragamo? È assolutamente un'ottima domanda, alla quale posso darti una risposta. Innanzitutto, se l'agenzia che gestisce influencer è intelligente, evita ovviamente di spaziare da un prodotto all'altro senza un senso. Solitamente questa roba viene effettuata più che altro dai fashion blogger. Oggi indossano, dato che devono vestire, oggi mettono un abito, domani ne mettono un altro. È normale. Dall'altra parte, io quello che consiglio sempre alle aziende, però oggi sono ancora un po' dure a comprendere, alcune stanno iniziando a capire, è non prendere un influencer e fargli fare solo un'operazione one shot, ma chiudi un accordo per almeno un anno rinnovabile, perché comunque diventa più credibile anche nei confronti dei fan. Un po' come Tiger Woods con Accenture ai tempi d'oro, tanto per capirci. Diciamo sì, magari a quei livelli, però, però assolutamente sì. Quindi devo dire che alcune aziende stanno iniziando a capire che costruire delle relazioni di lungo periodo è necessario. Quanti sono gli influencer oggi sul mercato? Allora, gli influencer a livello globale passano i 46 milioni. In Italia ne possiamo tracciare all'incirca 22.000. Il fatto che finalmente le piattaforme digitali abbiano dato, e ho messo finalmente tra virgolette, non so se si era sentito, abbiano dato spazio a chiunque, mi fa pensare però che ci possa essere dentro una quantità di fuffa infinita, no? Allora, come faccio a diventare un influencer di rilievo? Come faccio ad emergere? E come faccio a crescere in maniera costante e a mantenere il mio presidio? Allora, tornando a una cosa che ho detto prima, fare l'influencer è un lavoro, ci vuole dedizione, ci vuole voglia di farlo a tutti gli effetti. A me piace ricordare quello che un po' ha cambiato anche il mio concetto di influencer, o meglio, preconcetto di influencer, è stato l'incontro con questo ragazzino che si chiama, ai tempi ragazzino, ormai adulto, Favij. Ah, io certo. Sono rimasto impressionato perché, entrando nella sua cameretta, lui aveva un piano di lavoro preciso, cioè dalla mattina si svegliava, registrava, tornava da scuola, compiti, montaggio, registrava un altro video, montaggio, così tutti i giorni della sua vita. Io sono rimasto impressionato. Quindi, come si diventa un influencer? Lavorando e dandosi un piano di lavoro. Non c'è una formula matematica, diciamo che molte volte il successo ti piomba addosso. Mantenerlo è veramente la sfida più ardua, perché lì non ti devi montare la testa, devi continuare a lavorare a testa bassa e comunque devi comunque mantenere quel rapporto umano anche con la fan base. Ti faccio l'ultima domanda, Stefano, sì. Prima di salutarci, a che età si incomincia a diventare influencer? Allora, parto col dire che non c'è un'età. Ai tempi di YouTube, i primi, diciamo, youtuber popolari avevano circa 16-17 anni, perché il pubblico che li seguiva era leggermente più piccolo. Oggi, con l'avvento di TikTok e col fatto che molti genitori, questo è un altro fatto, bisogna prendere in considerazione questa cosa, sanno ormai che esiste questo tipo di mestiere, alcuni ragazzini iniziano già magari a 12-13 anni questa carriera. Quindi un po' i genitori stanno facendo, hanno cambiato il luogo dove accompagnare i figli. Una volta li portavano a fare i provini ad amici, oggi li stanno portando davanti ai microfoni dei social network. Diciamo che li spronano all'utilizzo dei social network, perché hanno capito che comunque può essere un lavoro, e anche un lavoro credibile. Devono comunque i genitori stare dietro, perché sul web puoi trovare un po' di tutto, quindi sicuramente i ragazzi vanno seguiti, però perché no? E allora, cari genitori, se volete aiutare i vostri figli a diventare degli influencer, date un'occhiata anche a Ichu, questa piattaforma che aiuta lavorare e a costruire la propria fanbase. Ce lo ha raccontato oggi Stefano Longoni ai microfoni della Radio Next. Io ringrazio Stefano. Ringrazio te, Pepe, grazie a tutti gli scattatori. E ringrazio ovviamente tutti voi per essere stati con noi durante questa puntata di Radio Next. Ringrazio Gian dall'altra parte del vetro per averci dato supporto, come ovviamente vi do io appuntamento al podcast esteso di questa intervista, oppure a una prossima puntata di Radio Next la prossima settimana. Un saluto da Pepe Moder.